Lo sviluppo irregolare di un fiore di loto, quando sorge una certa facoltà di chiaroveggenza, non produce soltanto illusioni e idee stravaganti, ma anche errori e mancanza di equilibrio nella vita ordinaria. A seguito di tale sviluppo si può diventare paurosi, invidiosi, vanitosi, superbi, ostinati e così via, mentre prima non si avevano queste qualità. È stato detto che 8 dei petali del fiore di loto a 16 petali erano già sviluppati in un remotissimo passato e che si ripresentano da sé nel corso dell'educazione occulta. Il discepolo deve volgere ogni sua cura sugli altri 8 petali. Quando la disciplina non è giusta, può succedere facilmente che tornino a presentarsi soltanto i petali prima sviluppati e che quelli ancora da formare rimangano atrofizzati. Questo avviene soprattutto quando la disciplina non cura abbastanza il pensiero logico e razionale. È di somma importanza che il discepolo sia un uomo ragionevole, con lucidità di pensiero. È inoltre importante che egli tenda la massima chiarezza nel parlare. Uomini che cominciano a presentire qualcosa del mondo soprasensibile ne parlano spesso e volentieri e così impediscono la propria giusta evoluzione. Quanto meno si parla di queste cose, tanto meglio è. Dovrebbe parlarne soltanto chi ha raggiunto un determinato grado di chiarezza. Al principio dell'insegnamento, i discepoli dell'occultismo sono di solito sorpresi nel vedere quanto poco chi è già spiritualmente evoluto sia curioso di conoscere le loro esperienze. Sarebbe meglio per loro non raccontare affatto le proprie esperienze e parlare soltanto della maggiore o minore difficoltà che incontrano nel compiere i loro esercizi o nel seguire le indicazioni. Chi è già spiritualmente evoluto ha infatti mezzi ben diversi per giudicare dei loro progressi che non le loro dirette comunicazioni. Gli 8 petali del fiore di loto a 16 petali riescono alquanto induriti da tali comunicazioni, mentre dovrebbero conservarsi morbidi e flessibili. Per spiegarmi meglio, citerò un esempio. Per maggior chiarezza, esso non verrà attratto dal mondo soprasensibile, ma dalla vita ordinaria. Supponiamo che io oda una notizia e mi formi subito un pregiudizio. Poco dopo mi viene riferita un'altra notizia sul medesimo argomento, che non concordi con la prima. Mi trovo perciò costretto a modificare il giudizio che mi ero formato. La conseguenza ne è un influsso sfavorevole sul mio fiore di loto a 16 petali. Tutto sarebbe diverso se da principio avessi aspettato a formarmi un giudizio, se avessi serbato silenzio interiormente con i pensieri ed esteriormente con le parole sull'intera vicenda, fino al momento in cui potessi avere elementi del tutto sicuri sui quali basare il mio giudizio. La prudenza nel formare ed esprimere i giudizi diventa gradatamente la caratteristica speciale del discepolo dell'occultismo. Per contro, cresce la sua recettività per le impressioni e le vicende che fa sfilare dinanzi a sé, in silenzio, al fine di crearsi la maggior copia possibile di esperienze alle quali attenersi quando gli è necessario giudicare. Tale modo prudente di agire produce nei petali del fiore di loto delle sfumature rosso-azzurrognole e rosso-rosee, mentre nel caso opposto le sfumature che si presentano sono di colore rosso scuro o arancione. In modo analogo al fiore di loto a 16 petali, si forma nelle vicinanze del cuore il fiore di loto a 12 petali. Anche in questo, la metà dei petali già esisteva ed era in attività in un passato stadio dell'evoluzione umana. Questi 6 petali non richiedono perciò una speciale elaborazione durante la disciplina occulta, essi compiono spontaneamente e cominciano a ruotare non appena gli altri 6 vengono elaborati. Anche qui, per favorire lo sviluppo di questi ultimi, occorre che il discepolo dia coscientemente una determinata direzione ad alcune speciali attività dell'anima. Bisogna rendersi ora chiaramente conto che le percezioni dei singoli sensi spirituali o animici hanno caratteri diversi. Il fiore di loto a 12 petali trasmette una percezione diversa da quella del fiore che ne ha 16. Quest'ultimo percepisce figure. La maniera di pensare di un'anima, Le leggi in ordine alle quali si effettua un fenomeno naturale si palesano al fiore di loto a 16 petali in figure. Non sono però figure rigide, immobili, bensì attive, piene di vita. Il chiaroveggente in cui è sviluppato questo senso, per ogni genere di pensiero, per ogni legge della natura, può dire la forma in cui si esprimono. Un pensiero di vendetta assume per esempio una figura appuntita, dentellata. Un pensiero benevolo ha spesso la forma di un fiore che si schiude, e così via. Pensieri esatti, significativi, hanno forma regolare e simmetrica. Concetti poco chiari hanno contorni increspati e incerti.